Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione della nuova serie di Italia in Controluce, il programma di Radio 24 che indaga ogni giorno sulla cronaca, sulla politica, sul costume italiano, che vi ricordo ha diversi modi per poter essere contattato: su Facebook, la pagina del gruppo, su Twitter oppure via mail controluceradio24.it. Quella che vi racconto oggi è un'eccellenza italiana. È una storia, come quella di Giordano Sangiorgi, direttore del MEI, il meeting delle etichette indipendenti di Faenza. Giordano Sangiorgi ha trasformato negli anni la sua passione per la musica in un festival vero e proprio, itinerante da quest'anno, che unisce tutti gli artisti indipendenti, le loro etichette, con i sistemi nuovi di produzione alternativi a quelli delle major del disco. Ma diciamo che nasce da una grande passione musicale che ho avuto fin dalle superiori. Avevo fatto un gruppo con Carlo Lucarelli e strimpellavamo male con alcuni gruppi all'epoca. Avevamo insieme allestito le prime Battle of the Band, cioè i primi contest degli anni Ottanta, quando ancora non ce n'erano in Italia, in Emilia Romagna erano proprio pochissimi, e da lì diciamo la passione è sempre seguita, fino a pensare intorno alla metà degli anni 90, vista la crescita e lo sviluppo della discografia indipendente, di fare un punto di riferimento a Faenza di queste produzioni, per cui è stato un attimo contattare quella dozzina di esperienze che c'erano in quel momento, a metà degli anni 90, riunirle, ognuno a portare le proprie produzioni da esporre, chiamare un po' di band a suonare. La cosa bella fu che arrivarono veramente migliaia e migliaia di persone, fu per dire una delle primissime date dei Blue Vertigo, ecco, un gruppo che stava nascendo in quell'epoca. Quante sono oggi le etichette indipendenti italiane? Ma diciamo che oggi il mercato ovviamente è radicalmente mutato da questo della metà degli anni 90 che ti citavo io. Le etichette discografiche indipendenti, che sono state il motore del rinnovamento della discografia italiana, attive sono circa 400, che propongono dal 1 o 2 produzioni a una dozzina di produzioni all'anno, tutte legate alla qualità della proposta, sia essa nei più diversi generi, che vanno dal pop all'hip hop, dal folk al metal, dal punk al rock, dalla canzone d'autore al reggae, a tutti i generi immaginabili. Va detto che la struttura della discografia indipendente, per fortuna, è nata e si è sviluppata in maniera forte in Italia, come in tanti paesi, soprattutto quelli anglo-americani, perché oggi permette a molti artisti di poter avere delle strutture, oggi che le multinazionali stanno dismettendo tutte le loro strutture nazionali, di avere delle strutture, delle esperienze, delle competenze in Italia per poter continuare a produrre e distribuire dischi nazionali. Tanti grandi nomi della musica italiana oggi si fanno supportare da questa esperienza di distribuzione e produzione indipendente. Oltre a loro si devono aggiungere centinaia e centinaia di piccole produzioni ed autoproduzioni legate ai festival e alle band, che oramai spesso si autoproducono le proprie cose. E da qui voglio arrivare, perché da quando tu hai iniziato il percorso del MEI, le tecnologie hanno cominciato a trasformare anche il modo di produrre la musica. Diciamo che le trasformazioni nella musica sono state rilevanti quasi ogni 2-3 anni. Se pensi che il primo sito in Italia di mp3.it ci fu nel 98, cioè si iniziò a pensare alla compressione della musica con l'MP3, che ormai è ampiamente superato nel 98, da allora, e Vitamini, che è stato il primo sito europeo di musica nel mondo, una sorta di iTunes dal basso, nato a Torino, che però poi ha esaurito la sua spinta intorno ai primi degli anni 2000, perché probabilmente troppo in anticipo. E se pensi che a quei tempi già si parlava di queste cose, si capisce come da allora sia rivoluzionato il mondo. Oggi le nuove tecnologie permettono, da un lato, a tutti di potersi fare conoscere, se si hanno grandi capacità, come dire, di marketing nei social network, nei siti, e di far arrivare le proprie produzioni veramente a tutti, senza costi. Dall'altro però hanno notevolmente abbattuto la filiera dell'economia del settore, nel senso che di fronte al crollo del mercato del CD, che ovviamente non è stato, come dire, tamponato da un accordo che si doveva fare 10-12 anni fa fra internet e la discografia, gli acquisti online di musica legale sono solo il 10% del giro di musica che c'è, è chiaro che oggi ci sono meno risorse ma più offerte, più creatività. Paradossalmente dico, oggi stiamo vivendo uno dei periodi, a mio avviso, creativi più interessanti, parlo del nostro paese, ci sono cantautori nuovi veramente di grande interesse, ma che però hanno più difficoltà economiche proprio perché è cambiato il mercato musicale, c'è una crisi economica globale complessiva che, come si sa, poi taglia nei costi legati alla cultura e agli spettacoli, ahimè, e terzo, l'innovazione tecnologica ha abbattuto, come dire, i costi per il consumo della musica, che oggi te la trovi praticamente a casa a dei costi accessibilissimi. Giordano San Giorgi, un'ultima domanda. Adesso si è trasformato il MEI, questo anno è il 15° anno di età del MEI. Come andrà a finire? Dove va a finire il MEI? Ma questo, io, come dico sempre, non lo sappiamo mai, proprio perché ci sono questi cambiamenti, ci piace accompagnarli noi insieme e cercare di prefigurare il futuro. Noi abbiamo voluto celebrare i 15 anni quest'anno in un modo diverso, e quindi cambiare proprio la formula e cercare di sostenere le band emergenti, le migliori etichette indipendenti che cercano di aprirsi ai mercati esteri e internazionali, e quindi di dare diversi appuntamenti che finora sono andati tutti bene. Ad aprile, anzi a maggio, a Torino, al Salone del Libro di Torino, abbiamo fatto con i costruttori di strumenti musicali il primo salone di musica che si è chiamato Dimensione Musica, con 60 espositori, molti showcase di artisti folk, jazz ed autore, che è andato veramente molto bene. Il 21 giugno, in occasione della giornata musicale europea della musica, che ha il suo centro a Parigi, proprio a Parigi, con il Comune di Parigi, abbiamo fatto la prima festa della musica italiana, che è andata benissimo, è piaciuta tantissimo ai francesi, con il Quinto Rigo e tanti altri artisti importanti della nuova scena musicale indipendente italiana. Abbiamo due appuntamenti che invitiamo tutti a non perdere, ad esserci, tutti gli appassionati di musica. A Faenza, dal 23 al 25 settembre, faremo il MEI Super Sound, che è questo MEI dedicato a tutti i giovani artisti emergenti, cioè tutti coloro che cercano di emergere non passando dalle strade di amici X Factor, ma cercando le proprie vie alternative legate al live e al web. Quindi più di 300 band al vivo, ospiti importanti, cito fra gli altri Roy Paci, Roberto Bellere e Rodrigo Derasma degli After Hours, che presenteranno il loro nuovo disco, Zibba che farà un duetto con Federico Zampaglione, e i Quinto Rigo faranno la prima data a Zero del loro tour acustico, e tanti altri. Mentre il MEI, dal 25 al 27 novembre, sarà la Fiera del Levante di Bari, e con Puglia Sound realizzeremo il Magic Max MEI, cioè la prima fiera internazionale di musica europea del Mediterraneo in Italia, per fare dell'Italia un punto di riferimento europeo e per dare alle nostre principali etichette discografiche indipendenti delle prospettive di mercato internazionale. Anche qui le adesioni sono già molte, molto interessanti, e si prefigura una fiera internazionale di grandi operatori di grande rilievo. E quindi 23-25 settembre a Faenza e 25-27 novembre a Bari, i due appuntamenti ai quali aspettiamo tutti gli appassionati di musica. Italia in controluce, la seconda edizione termina qui. Lo ricordo, ci potete trovare su Facebook alla pagina Italia in controluce e il gruppo con lo stesso nome su Twitter per rintracciarci e rintracciare anche i nostri ospiti quotidiani via mail controluceradio24.it. Domani torniamo alle 6:30 con un ospite d'eccezione, un grande musicista, un grande armonicista, Fabio Treves, che ci racconterà il suo impegno civile, il suo modo di suonare l'armonica e la storia del blues in Italia.